Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Per cominciare e per ritornare al nostro standard, lo standard che prevede sì musica, ma anche incipit letterari e spezzoni cinematografici. Questa è Eclettica nella sua stagione, nell'intera stagione, che è la numero 13 qua su Rock FM, in compagnia di Giulio Caperdoni, che raggiungete all'indirizzo giulio@radiorockfm.com, utile anche per iscrivervi alla lista nera. L'altro indirizzo è myspace.com/eclettica. Abbiamo quindi esaurito lo spazio dedicato al passato, dedicato alla classifica delle migliori 10 canzoni del 2006, quindi possiamo di nuovo puntare verso il futuro. Derek Strange si accucciò in posizione da 3 punti. Inspirò lentamente, come gli aveva insegnato suo padre, e si riempì i polmoni dell'intenso profumo di aprile. In città, magnolie, sanguinelle e ciliegi erano in piena fioritura. L'aroma dei loro fiori e la fragranza di un cespuglio di lillà che cresceva lungo uno steccato vicino riempivano l'aria. «Tieni la schiena dritta», disse Derek, «come se dovessi apparecchiarci sopra la tavola. E non stare con il sedere per aria. Ecco, adesso sei pronto». Questo era l'incipit di «Fuoco nero» di George P. Pelecanos. Countryside, you have to abide. So happy. son. I'm Captain Jack Sparrow. Savvy? Questo inizio della terza parte di Eclettica, se ovviamente aperto con nomi nuovi per quanto riguarda le playlist di Eclettica. Uno che troverete nella playlist di questa settimana anche come pillola, un nuovo disco domino. Benji Ferry è l'artista in questione, statunitense. Live in the Nest è l'album e il brano che ha aperto Eclettica era In the Countryside. Poi ci siamo ascoltati un duo canadese, di Toronto per la precisione, si chiamano... vediamo un po' se recupero i nomi, eccoli qua: David Truth e Johan Williams, e come avete sentito si dedicano a questa elettronica che potremmo ormai quasi definire d'epoca. All Under è il titolo dell'album, invece So Long è il titolo del brano. Invece come terzo pezzo andiamo su un nome che in playlist con tutti quegli esclamativi dovreste aver notato facilmente, e fra l'altro è stato anche votato fra i migliori brani del 2006, ma può darsi che non ci sia stato sufficiente tempo per metabolizzarlo, perché è un pezzo che a me piace molto. Se magari la Kitsune Maison Compilation numero 3 fosse arrivata con un po' più di anticipo, magari i texani Oh No Oh My avrebbero potuto comparire in quella lista delle 10 migliori canzoni del 2006. Questa è I Love You All The Time. all we got now. We move, we groove, we smoke, we choke, we know we're broke, that's all we got now. We love, we talk, we hate, we walk, we don't know why, that's all we got now. We sit, we sway, we fade. Il sample della regina del bossa nova, Astrud Gilberto, a caratterizzare questo brano che, a sua volta, caratterizzava le playlist di Eclettica qualche anno fa, nel 2003. Infatti si è appena chiuso Profumo di Eclettica, lo spazio dedicato ad andare a recuperare i brani che di anno in anno avevano caratterizzato le trasmissioni sulle frequenze di Rock FM, frequenze che ora possiamo ritenere definite in modo il più allargato possibile, non solo etere, ormai quasi più etere, purtroppo ne è sparita un'altra nei giorni scorsi. Spero che quegli ascoltatori stiano recuperando tramite gli altri mezzi, o lo streaming internet, o il podcasting, o il satellite. Fate sentire la vostra voce se ci siete. Noi continuiamo a rimanere qua e a tenere duro. Slow Mo è il nome dell'artista in questione, o meglio, lo pseudonimo dell'artista in questione. Veniva da Sheffield, si chiamava David Gledhill. Perché uso il tutto al passato? Perché non ho più sentito parlare di lui. Questo disco per la Plate Against Sam a me aveva colpito, al di là di Death Over Aver, il titolo del brano appena ascoltato. Però purtroppo poi, almeno sotto i miei occhi, non è più passato niente a suo nome. Ora invece ci ascoltiamo un progetto a nome Beatrice Ardisson, artista francese, DJ, music selector francese, una delle più quotate in Francia, che al di fuori della Francia è anche conosciuta, anche in Francia, però al di fuori della Francia è più conosciuta per i suoi DJ set, non tanto per i suoi DJ set quanto per le compilation, scusatemi per il francese, la Musique de Paris Dernière, che sono arrivate al volume 5 proprio a fine 2006. Cosa contengono? Contengono cover originali, cover a volte ironiche, cover a volte divertenti, altre volte magari solo completamente folli, di brani non legati ad una particolare epoca, ad un particolare artista, ma cover, così, in senso lato. Per esempio, a me ha colpito delle 19 cover fra tracce esplicite e ghost track, quella fatta da due artisti di cui anche con Google non sono riuscito a trovare niente, Zita e Cyrus, del brano Anarchy in the UK dei Sex Pistols, che un po' mi ricorda il vecchio progetto Angelus Rock di Roberto Cacciapaglia, che tanti anni fa, proprio agli inizi di Eclettica su Rock FM, ci eravamo anche ascoltati con sufficiente frequenza. Ecco, chi magari si ricorda quella versione la può in qualche modo collegare con questa. I Sex Pistols mai avrebbero fatto una cover del genere, neanche Sid Vicious ai tempi di My Way. And the MPLA. Or is it the UDA? Or is it the IRA? I thought it was the UK. Oh, just another country. Testify. Speak our tongue. e con Pierre Sfaccini e il suo brano dal titolo If I, siamo quasi arrivati alla conclusione anche della terza parte di Eclettica di questa settimana. Ci arriviamo a tutti gli effetti con il divertentissimo francese Catherine, questa è 100% VIP. Eclettica, fine della terza parte.